Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci al primo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Anche oggi raccontiamo un caso particolare che si sta concludendo bene, si è concluso bene, seguito questo caso dall'avvocato Gioia Barbato, ben trovata. Grazie, buongiorno Mirko, buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo di mobili, giusto? Esatto, sì. Parliamo di una nostra socia che ci ha segnalato, insomma, di aver acquistato dei mobili per arredare casa, quindi parliamo di letto, sedie, insomma, tavolo da cucina, quindi tutti i prodotti per la casa, ecco. E al momento della consegna si è trovata una brutta sorpresa, nel senso che almeno l'80% di questi prodotti erano difettati, quindi recavano dei gravi vizi di conformità. E per difettato cosa intendiamo? Beh, solo per esemplificare, mancavano gli ammortizzatori del letto, la specchiera per il salotto era addirittura crepata, la cucina, che era stata ordinata in laccato lucido, che poi, quando parliamo di queste grandi distribuzioni che hanno prodotti, insomma, a prezzi convenienti, non si tratta proprio di una laccatura vera e propria, ma hanno quella sorta di adesivo, non so se hai presente, quindi anche sì. Quello era tutto scrostato, e addirittura il tavolo da cucina aveva una parte aveva un dislivello, quindi insomma c'erano dei vizi molto molto evidenti. Quindi non parliamo di difettini superficiali di qualche graffio, parliamo anche di cose sostanziali. Sì, esatto, sì, tanto da rendere addirittura i mobili inutilizzabili, addirittura una sedia era rotta, aveva proprio lo schienale che non aderiva bene al sedile. Ecco, quindi... allora la signora si vede arrivare a casa questa merce, aspettandola, anche perché insomma quando uno ordina i mobili vuol dire che ne ha bisogno, certo, perché... si vede arrivare questa merce e cosa fa? Certo, allora, beh, la prima cosa, ha fatto subito la segnalazione al punto vendita. Il punto vendita prima ha temporeggiato, poi dopo un po' di tempo, al massimo gli aveva offerto un buono spesa di una somma irrisoria da spendere all'interno di quel punto vendita. Quanto aveva speso la signora? La signora aveva speso circa 2000 euro. Circa 2000 euro, perché poi sai, tra il trasporto e tutto quanto, sì, trasporto, esatto, e montaggio. Esatto. Mm-hmm. Quindi facciamo finta che, insomma, vabbè, più o meno la percentuale della parte difettata era l'80%, quindi la parte difettata era di 1200 euro quasi, quindi sommato al trasporto e la parte non difettata, che era quel piccolo 20%, più o meno sui 2000 euro. Ecco, e quindi hanno cercato di temporeggiare dicendo che le avrebbero dato un buon acquisto, esatto. Però poi si è rivolta a voi. Esatto, perché il buon acquisto non arrivava, la signora continuava a recarsi in sede, però il responsabile si faceva negare, tutti i tentativi di risoluzione bonaria non sono andati a buon fine, e poi anche, insomma, parliamoci chiaro, il fatto che uno si trovi tutti i mobili difettati, se ne fa ben poco di un buono spesa di 100 euro all'interno del locale, insomma, visti anche poi i precedenti e la scarsa qualità poi del prodotto venduto. Quindi la signora si è rivolta a noi dell'Adico e noi come ufficio legale abbiamo diffidato il punto vendita e tramite questa lettera di diffida, che poi è una messa in mora, siamo riusciti ad ottenere veramente dei buoni risultati, perché la signora ha ottenuto innanzitutto la restituzione della merce, ha innanzitutto restituito la merce difettata ed ha ottenuto come corrispettivo la somma di denaro che aveva, cioè la somma integrale del prezzo corrisposto. Quindi addirittura, per scusarsi per il disagio, gli hanno addirittura offerto in più un buono spesa da spendere all'interno del locale, insomma, per scusarsi, insomma, dell'accaduto, ecco. E quindi la signora ha avuto indietro i soldi che aveva speso, però attualmente senza mobili, oppure ha provveduto diversamente andando da un'altra parte? Ha provveduto diversamente andando da un'altra parte, sì, perché questi punti vendita, per carità, sono molto convenienti e tante volte si può essere fortunati, quindi trovare dei prodotti di qualità. Però insomma, io eviterei, insomma, di prendere addirittura una cucina o un letto in questi posti, perché sappiamo che il prezzo fa gola, però ecco, cioè, come ci la qualità è proporzionale al prezzo, esatto. Chi più spende meno spende, ecco, anche perché poi si tratta di mobili che dovrebbero durare per anni, se non addirittura generazioni. La vicenda è conclusa formalmente oppure manca ancora qualcosa? Allora, per il momento abbiamo firmato la transazione. Il punto vendita ha mandato i trasportatori per il ritiro della merce, però formalmente deve essere ancora concretizzato il pagamento e quindi la restituzione del denaro. Siamo in attesa, nel caso in cui non venga rispettato il patto economico, insomma l'accordo economico, provvederemo per altre vie, insomma, provvederemo diversamente a sollecitare nuovamente il punto vendita e poi eventualmente si dovrà scegliere poi quella che è la strada giudiziale. Ma non penso sia questo il caso, insomma io ho visto anche l'intento collaborativo dell'azienda, quindi credo sia solamente una questione di tempo. Sì, un'aspettativa dovuta ai tempi tecnici. Qualche consiglio generale, quando si compra, ad esempio restiamo nel campo dei mobili, ma credo che la cosa valga per qualsiasi acquisto, quanto tempo c'è per, una volta che uno si è accorto del difetto, per protestare? Certo, allora innanzitutto volevo ricordare che tutti i consumatori sono protetti da un codice ad hoc, che è il codice del consumo, ed in particolare l'articolo 130 affronta questo tipo di problematica, ovvero nel momento in cui un consumatore acquista un prodotto difettoso ha tutto il diritto di reclamare alla parte venditrice o la restituzione della merce difettata o la riduzione del prezzo nel caso in cui un'eventuale riparazione o sostituzione sia divenuta impossibile, salvo sempre il risarcimento del danno. Per quanto riguarda la tempistica, il tempo è di 60 giorni dal momento della scoperta del vizio e poi ricordiamoci che il tempo massimo poi è 26 mesi dalla consegna, quindi perché bisogna distinguere tra scoperta e consegna. Sì. Allora 60 giorni dal momento della scoperta e 26 mesi dal momento della consegna, quindi distinguiamo questi due tempi. E questo sì, vale solo, scusa se ti ho interrotto, sì. E questo vale solo per il diritto dei consumatori, per tutti gli altri tipi di aspetti, quindi per quanto riguarda beni immobili o mobili, quando non si tratta di un consumatore, vigono altri termini, altri tempi, e quindi trova applicazione il codice civile. Okay. Bisogna sempre distinguere tra quello che è il consumatore e quindi il soggetto che usufruisce del prodotto finale, come in questo caso, da quello che invece poi è un altro soggetto che non può essere definito consumatore da codice. Certo, okay. Però insomma la norma è: appena ve ne accorgete telefonate subito. Esatto. Perché poi più si aspetta peggio. Certo. È chiaramente. Certo, anzi do un consiglio, non è sufficiente telefonare purtroppo, ma è sempre il caso di formalizzare per iscritto. Io dico sempre anche un fax o una consegna di una raccomandata anche a mani se c'è la controfirma della parte venditrice, perché purtroppo se, pensando alla peggiore delle ipotesi, se un giorno si andrà a rivendicare il proprio diritto giudizialmente, farà fede solo lo scritto. Certo, come dicevano i latini, le parole volano. Bravissimo. E non rimangono scritte da nessuna parte. Esatto. Allora, bene che questo caso sia concluso positivamente, speriamo di trattarne altri con questa positività, grazie all'Adico e all'avvocato Gioia Barbato. Grazie. Buon proseguimento. Grazie. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.